Capitolo 22. Te la sei cercata, signora dottora cara, disse Susan, che aveva ascoltato la maggior parte delle conversazioni mentre lucidava l'argenteria nella dispensa. Non avrei voluto, ma Susan, certo che voglio scrivere quel necrologio. Mi piaceva Anthony Mitchell, per quel poco che l'ho conosciuto. E sono sicura che si rivolterebbe nella tomba se il suo necrologio fosse banale, come quelli sul Daily Enterprise. Anthony aveva uno scomodo senso dell'umorismo. Anthony Mitchell era un tipo proprio simpatico quando ero giovane, signora dottora cara. Anche se un po' sognatore, si diceva. Non fu granché intraprendente nel lavoro in modo da soddisfare sufficientemente Bessie Plummer, ma ha fatto una vita decente e ha pagato i suoi debiti. Naturalmente sposò l'ultima ragazza che avrebbe dovuto, benché Bessie Plummer ora sembri una cartolina umoristica. A quell'epoca era molto carina. Alcune di noi, signora dottora cara, concluse Susan con un sospiro, non hanno neanche quello da ricordare. Mamma, disse Walter, le bocche di leone stanno crescendo folte tutto attorno alla veranda sul retro e un paio di petirossi hanno cominciato a costruire un nido sul davanzale della finestra della dispensa. Glielo permetterai, non è vero, mamma? Non aprirai la finestra spaventandoli e facendoli scappare? Anna aveva incontrato Anthony Mitchell 2 o 3 volte, benché la grigia casetta dove abitava tra i boschi di abeti e il mare, con il grande salice su di essa come un grosso ombrello, fosse in Lower Glen, e il medico che curava la maggior parte delle persone di quella zona era di Mowbray Narrows. Ma Gilbert in alcune occasioni aveva acquistato del fieno da Mitchell, e Anna, una volta che lui ne aveva portato un carico, gli aveva mostrato il suo giardino, scoprendo che parlavano la stessa lingua. A lei piaceva il suo magro, rugoso, amichevole volto, i suoi coraggiosi scaltri occhi nocciola giallastri che non avevano mai esitato e non erano mai stati ingannati. Salvo una volta, forse, quando la bellezza superficiale e fugace di Bessie Plummer lo persuase ad uno sciocco matrimonio. Eppure non sembrava mai infelice o insoddisfatto. Finché poteva arare, fare giardinaggio e mietere, lui era contento come un vecchio pascolo in pieno sole. I suoi capelli erano neri e leggermente brinati d'argento e un maturo e sereno spirito si rivelava nei suoi rari ma dolci sorrisi. I suoi vecchi campi gli avevano dato pane e delizia, la gioia della conquista e il conforto nell'ora del dolore. Anna era contenta di saperlo sepolto vicino a loro. Poteva essere che me ne vado felice, ma aveva vissuto anche felicemente. Il medico di Mowbray Narrows raccontò che quando disse ad Anthony Mitchell che c'erano poche speranze di recupero, lui aveva sorriso e risposto: Beh, la vita a volte è un po' monotona e ora sto diventando vecchio. La morte sarà una novità. Sono davvero curioso su cosa succederà. Anche Mrs. Anthony, tra tutte le assurdità che aveva raccontato, era inciampata in un paio di cose che rivelavano il vero Anthony. Anna, qualche sera dopo, accanto alla finestra della sua stanza, leggeva soddisfatta la poesia che aveva scritto, La tomba del vecchio. Ponila dove i venti possano dilagare soavi e in profondità attraversare i rami dei pini, e dove la voce del mare arriva attraverso la prateria orientale. E dove la pioggia cadendo canterà e tranquillizzerà il suo sonno. Ponila dove i pascoli sconfinati di verde sono disegnati ovunque, dove le messi e i campi sono mietuti e calpestati, e dove i prati e i pendii occidentali sono coperti di trifoglio e sbocciano gli alberi nei frutteti, gli alberi che da lui anni fa furono piantati. Ponila dove la fioca luce delle stelle splenda sempre vicino a lui, e dove il levar del sole diffonda la sua gloria intorno al suo giaciglio, e dove le erbe umide che lo copriranno proteggano teneramente il suo sonno. E dal momento che erano tutti da lui amati, attraverso anni pieni e molto ben utilizzati, deve la grazia di ogni cosa adornare il luogo dove la sua spoglia riposa, e il mormorio del mare nascosto sia il suo lamento funebre eterno. Penso che Anthony Mitchell sarebbe piaciuta, disse Anna, precipitandosi per aprire la sua finestra e sporgersi verso la primavera. C'erano già file sbaiate di giovani lattughe nell'orto dei bambini. Il tramonto era morbido e rosa dietro il boschetto degli aceri e la conca risuonava della soave e dolce risata dei bambini. La primavera è così bella che odio andare a dormire e perdermi qualche cosa di suo, pensò Anna. La signora Anthony Mitchell, un pomeriggio della settimana successiva, arrivò per avere il suo necrologio. Anna segretamente glielo lesse con un po' di orgoglio, ma il viso della signora Anthony non espresse la minima soddisfazione. Ah, si può dire che sia davvero vivace, rende le cose molto bene. Ma non c'è una parola su di lui che sta in paradiso? Non sei sicura che ci sia andato? È così sicura che non ho sentito la necessità di parlarne, signora Mitchell? Beh, lui non andava in chiesa di frequente e alcune persone potrebbero dubitarlo, credo. E, insomma, non era un membro molto gradito della comunità. E, insomma, non ci sarebbero fiori sulla bara. Oh, mi dispiace. Oh, non ti biasimo, è una piccola cosa per fartene una colpa. Hai fatto del tuo meglio e sembra bello. Che ti devo? Oh, ma no, niente, signora Mitchell, io non ho mai pensato a niente del genere. Beh, ho pensato che probabilmente avresti risposto in questa maniera. Così ti ho portato una bottiglia del mio vino di Tarassaco. Addolcisce lo stomaco se hai problemi di gas. Avrei pure portato una bottiglia del mio tè di erbe varie, ma avevo paura che il dottore non avrebbe approvato. Benché, se ne vuoi, ti sembra che posso portarlo senza che lui lo sappia, non hai che da dirmelo. No, no, grazie, disse Anna piuttosto seccamente. Non si era ancora del tutto ripresa da quel vivace, tra virgolette. Come vuoi, se cambi idea, con piacere. Non avrò più bisogno di medicine per questa primavera. Quando mio cugino di secondo grado, Malachi Plummer, è morto quest'inverno, ho chiesto alla vedova di darmene 3 bottiglie che aveva avanzato. Ne avevo una dozzina. Stava per gettarle, ma io sono sempre stata una persona che non sopporta vedere sprecare le cose. Non potendo portarne più di una, le altre 2 bottiglie le ho fatte portare dal nostro bracciante. Se non fa niente di buono, non farà neanche niente di male, gli ho detto. Non nego che è un sollievo che non vuoi niente per il necrologio, perché sono piuttosto a corto di soldi in questo momento. Un funerale così costoso, anche se D.B. Martin è una delle imprese di pompe funebri più economiche da queste parti, ancora non ho pagato nemmeno il vestito da lutto. Sento davvero il lutto finché ho ancora qualcosa da pagare. Per fortuna non ho dovuto comprare un cappello nuovo. Avevo ancora il cappello nero di 10 anni fa, usato per il funerale di mia madre. È una fortuna che il nero mi stia bene, no? Se lei vedesse ora la vedova di Malachi Plummer con quel suo viso da marinaio, beh, devo andare. Le sono molto grata, signora Blythe, anche se, ma sono sicura che ha fatto del suo meglio ed è una bella poesia. Non vuole rimanere a cena con noi? Chiese Anna. Susan e io siamo sole, il dottore è via, i bambini stanno facendo la loro prima cena picnic nella conca. Oh, non mi dispiace, disse la signora Anthony, scivolando volentieri indietro nella sua sedia. Sarò lieta di restare ancora un po'. In qualche modo ci vuole tanto tempo per riposare quando si diventa vecchi e, aggiunse con un sorriso di sognante beatitudine sul suo viso rosa, non è odore di pastinaca fritta? Anna quasi si risentì verso la pastinaca fritta quando il Daily Enterprise uscì la settimana successiva. Nella colonna dei necrologi c'era la tomba del vecchio, con 5 versi invece dei 4 originali, e il quinto verso era: un marito meraviglioso, compagnia e puntello, uno migliore il Signore non creò a modello. Un marito meraviglioso, tenero e onesto, uno su 1 milione. Caro Anthony, tu eri questo. Il disappunto risuonò per tutta Ingleside. Spero che non ti sia dispiaciuto se ho aggiunto un altro verso, disse la signora Mitchell ad Anna nel corso di una successiva riunione dell'istituto. Volevo solo lodare Anthony ancora un po'. E mio nipote Johnny Plummer l'ha scritto. Appena messo giù, l'ha scarabocchiato via veloce in un batter d'occhio. Lui è come lei, non ha un aspetto intelligente, ma può poetare. L'ha ottenuto attraverso sua madre, era una Wickford. I Plummer non possiedono un briciolo di poesia, neanche un granello. Beh, che peccato che non abbia pensato subito a lui per il necrologio, signora Mitchell, disse Anna freddamente. Sì, davvero? Ma io non sapevo fosse in grado di scrivere poesie. Io ero in ansia di dire bene addio ad Anthony. Poi sua madre mi ha mostrato una sua poesia dove citava uno scoiattolo annegato in un secchio di sciroppo d'acero. Una cosa veramente toccante. Ma la tua era davvero gentile, troppo, signora Blight. Penso che le due cose combinate insieme ne hanno fatta una fuori dal comune, non è vero? Vero, dichiarò Anna. Capitolo 23. Il tempo passa e i bambini di Ingleside non avevano molta fortuna con i loro amici animali. Lo scodinzolante riccio e nero cucciolo che papà aveva portato a casa da Charlottetown un giorno della settimana successiva al suo arrivo scomparve nel nulla. Non si seppe più niente sul suo conto. C'era chi sussurrava di un marinaio di Harbour Head che era stato visto prendere su un cucciolo nero a bordo della sua nave la notte che salpò. Il suo destino è rimasto uno dei misteri insoluti, profondi e scuri nelle cronache di Ingleside. Walter provò più angoscia di Jem, che non aveva ancora del tutto dimenticato la sua disperazione per la morte di Jip e non voleva più affezionarsi ad un cane, perlomeno non coscientemente. Poi Tiger Tom, che viveva nella stalla e gli era vietato entrare in casa per la sua particolare inclinazione a far sparire le cose, fu trovato freddo e rigido sul pavimento della stalla e fu sepolto in pompa magna nella conca. E infine il coniglio di Jem, Bun, che aveva comprato da Joe Russell per 25 centesimi, si ammalò e morì. Forse la sua morte era stata accelerata da una dose di una medicina che Jem gli aveva dato, o forse no. Joe gliel'aveva consigliata e Joe doveva essere esperto su quelle cose, ma Jem si sentiva come se fosse stato lui a uccidere Ban. C'è una maledizione su Ingleside, chiese cupamente quando Ban fu sepolto accanto a Tiger Tom. Walter gli scrisse un epitaffio, poi lui, Jem e le gemelle portarono dei nastri neri legati intorno alle braccia per una settimana. Per l'orrore di Susan, che lo riteneva un sacrilegio. Susan non rimase afflitta per la morte di Ban, che l'aveva preso una volta a distruggere il suo giardino. Ancor meno approvò i due rospi che Walter prese e mise in cantina. Ne portò fuori uno quando fu sera, ma non riuscì a trovare l'altro. Walter, preoccupato, non riusciva a dormire. Forse erano marito e moglie, pensò. Forse sono terribilmente tristi e soli ora che sono separati. Susan ha messo fuori il più piccolo, che allora doveva essere la signora, e forse lei è spaventata da sola in quel grande cortile, senza che nessuno la protegga, proprio come una vedova. Walter non riusciva a sopportare il pensiero della vedova e dei suoi guai, così scivolò giù in cantina a cercare il rospo gentleman, ma riuscì solo a buttare giù un mucchio di pentolame scartato da Susan, con il risultato di un gran fracasso che avrebbe potuto svegliare i morti. Tuttavia si svegliò solo Susan, che andò con una candela giù a passo di marcia, con la fiamma svolazzante che disegnava ombre sinistre sul suo viso asciutto. Walter Blythe, che cosa stai facendo? Susan, oh Susan, devo trovare il rospo, disse Walter disperato. Susan, pensa come ti sentiresti senza tuo marito se ne avessi uno. Misericordia, di cosa stai parlando? Chiese legittimamente confusa Susan. A questo punto il rospo gentleman, che evidentemente era considerato perso, quando Susan apparve sulla scena, saltò fuori allo scoperto da dietro un barile di cetrioli sott'aceto aromatizzati all'aneto di Susan. Walter si avventò su di lui e lo fece scivolare fuori dalla finestra, dove c'era da sperare che raggiungesse il suo presunto amore e dopo vivessero felici e contenti insieme. Tu sai che non dovresti portare quelle creature in cantina, disse Susan severamente. Come avrebbero fatto a vivere? Oh, naturalmente avrei catturato per loro degli insetti, disse Walter offeso. Volevo studiarli. Non è semplice occuparsi di loro, gemette Susan mentre seguiva un indignato giovane Blight su per le scale, e non si riferiva certo ai rospi. Ebbero miglior fortuna con il petirosso. L'avevano trovato poco più di un pulcino sui gradini dell'ingresso, dopo una notte di tempesta, di vento e di pioggia in giugno. Aveva il dorso grigio, il davanti screziato e occhi luminosi, e da subito sembrò avere piena fiducia in tutto il popolo di Ingleside, compreso Gamberetto, che non tentò mai di molestarlo, nemmeno quando Cock Robin saltellava sfacciatamente sopra il suo piatto, servendosi di sana pianta. All'inizio gli davano da mangiare dei vermi e lui aveva un tale appetito che Shirley trascorreva la maggior parte del suo tempo a scavare. Conservava i vermi in barattoli che lasciava in giro per la casa con grande disgusto di Susan, ma lei avrebbe sopportato molto di più per Cock Robin, che volava proprio senza paura sul suo dito consumato dal lavoro e le cinguettava in faccia. Susan si era molto affezionata a Cock Robin, cosicché in una lettera a Rebecca Dew considerò pertinente menzionare che il suo pettirosso cominciava a diventare di un bel rosso ruggine. «Non pensare che il mio intelletto si stia indebolendo, ti prego, Miss Dew, cara», scrisse. «Suppongo che sia molto stupido essere così affezionate ad un volatile, ma il cuore umano ha le sue debolezze. Non è in gabbia come un canarino, cosa che non potrei sopportare, Miss Dew, cara. Ma vola a piacimento attraverso la casa e il giardino e dorme in un arco vicino alla piattaforma di osservazione di Walter sul Melo che guarda la finestra di Rilla. Una volta, quando lo portarono nella conca, volò via, ma tornò sul far della sera per la loro grande gioia e non ho potuto fare a meno di essere felice anch'io. La conca non era più come prima. Walter aveva cominciato a sentire che un luogo così incantevole meritava un nome più in sintonia con le sue romantiche possibilità. Un pomeriggio di pioggia dovettero giocare in soffitta, ma il sole uscì proprio poco prima del tramonto e inondò il Glen con il suo splendore. «Oh, vedi che grazioso arcobaleno!» gridò Rilla con quella sua lieve e graziosa blesità nel parlare. Era l'arcobaleno più bello che avesse mai visto. Un'estremità sembrava posarsi sulla guglia della chiesa presbiteriana, mentre l'altro cadeva nel canneto dello stagno, nella zona che collideva con l'estremità superiore della valle, e Walter subito la chiamò Rainbow Valley, la valle dell'arcobaleno. Rainbow Valley era diventato un mondo a sé per i figli di Ingleside. C'erano correnti senza sosta che andavano e venivano, e il canto degli uccelli risuonava dall'alba al tramonto, le bianche betulle brillavano ovunque, e da una di loro, la bianca dama, Walter fingeva che una piccola driade uscisse tutte le sere a parlare con loro. Un acero e un abete crebbero così strettamente legati che i loro rami si intrecciarono, e lui li chiamò The Tree Lovers, gli amanti alberi, e ci aveva appeso sopra una vecchia stringa di campanelle che facevano elfici ed eterei trilli quando il vento le scuoteva. Un drago era guardia del ponte di pietra che avevano costruito sul torrente. Gli alberi che incontrava all'intorno erano degli infedeli dalla carnagione scura ai quali poteva chiedere aiuto in caso di necessità, e i verdi e abbondanti muschi lungo le sponde erano tappeti. E migliori non ce n'erano, che provenivano da Samarcanda. Robin Hood e i suoi seguaci si acquattavano da tutte le parti. Tre folletti dell'acqua dimoravano nella sorgente. La vecchia casa abbandonata dei Barclay al fondo del Glen, con il suo fosso pieno di erba alta e il giardino inondato di comino, fu facilmente trasformato in un castello assediato. La spada del crociato era stata a lungo esposta alla ruggine, ma il coltello per la carne di Ingleside era una lama forgiata nel paese delle fate, e ogni volta che Susan non trovava il coperchio della sua padella, sapeva che stava facendo da scudo per un risplendente piumato cavaliere esposto ad audaci avventure nella Rainbow Valley. A volte giocavano ai pirati per accontentare Jem, che a 10 anni cominciava ad amare il sapore del sangue nei suoi divertimenti. Ma Walter si rifiutava sempre di salire sulla tavola. Invece Jem riteneva che quella fosse la parte principale del gioco. A volte si chiedeva se Walter era davvero abbastanza prode per essere un pirata. Però nascondeva lealmente quel pensiero e aveva fatto più di una trionfale battaglia con i ragazzi a scuola che chiamavano Walter Sissy Blythe. O così lo avevano chiamato, fino a quando scoprirono cosa significava confrontarsi con Jem, che aveva tra loro uno sconcertante talento con i pugni. Ultimamente a Jem era talvolta permesso di scendere a Harbour Mouth di sera per comprare il pesce. Si trattava di una commissione che egli amava, perché significava poter andare a sedere nella capanna del capitano Malachi Russell, costruita alla base di un terreno ricoperto di agrostide, vicino al porto, e ascoltare il capitano Malachi e i suoi compari, che una volta erano stati dei giovani temerari capitani di mare, narrare imprese gigantesche. Ognuno aveva qualche storia da raccontare sul loro girovagare. Il vecchio Oliver Reese, che era addirittura sospettato di essere stato un pirata in gioventù, fu fatto prigioniero da un re cannibale. Sam Elliott era a San Francisco proprio mentre c'era il terremoto. Bold William McDougall aveva lottato in modo impressionante contro uno squalo. Andy Baker era stato preso da una tromba marina e inoltre Andy poteva sputare dritto, come affermava ogni uomo Four Winds. Il capitano Malachi, con il suo naso adunco, la mascella scarna e gli ispiti baffi grigi, era il preferito di Jem. Era stato il capitano di un brigantino quando aveva solo 17 anni, navigando fino a Buenos Aires con carichi di legname. Aveva un'ancora tatuata su ogni guancia e aveva un meraviglioso vecchio orologio che si caricava con una chiave. Quando era di buon umore lo lasciava caricare a Jem. Quando era molto di buon umore portava Jem a pescare baccalà o a scavare vongole nella bassa marea, e quando era al massimo del buon umore mostrava a Jem i tanti modellini di barche che aveva intagliato. Jem pensava che fossero l'essenza dell'avventura. Tra loro c'era una nave vichinga con una vela quadrata a righe e un drago spaventoso sul davanti, una caravella di Colombo, il Mayflower e una slanciata imbarcazione chiamata l'Olandese Volante. E un'infinità di bei brigantini, golette, navi a vela con tre o più alberi, navi veloci. Oh, mi insegni a intagliare navi come queste, capitano Malachi, supplicò Jem. Il capitano Malachi scosse la testa e sputò pensieroso nel golfo. Non si può insegnare, ragazzo. Bisogna solcare i mari per 30 o 40 anni, e poi magari puoi comprendere abbastanza le navi per farlo. Comprensione e amore. Le navi sono come le donne, ragazzo, devono essere capite e amate o non rinunceranno mai ai loro segreti. E anche se credi di conoscere una nave da prua a poppa dentro e fuori, troverai che ha ancora qualcosa da mostrarti, continuando a tenere chiusa la loro anima. Lei volerebbe via da te come un uccello se tu lasciassi la presa su di lei. C'è una nave sulla quale io ho navigato e che non sono mai stato capace di intagliare a modello. Ormai è una vita che ci provo. Era un vascello austero e ostinato. E c'era una donna. Beh, insomma, è arrivato il momento di chiudere il becco. Ho appena finito un altro modello di nave e presto la metterò in una bottiglia. Ti mostrerò il segreto per farlo, ragazzo. Così Jem non sentì mai nient'altro sulla donna e non gli importò. Non gli interessava nessuno di quel sesso, salvo mamma e Susan. Ma loro non erano donne. Erano semplicemente mamma e Susan. Quando Jip morì, Jem aveva creduto di non volere mai più un altro cane, ma il tempo tutto cura, e a Jem era ritornata la voglia di averne uno. Lo scodinzolante cucciolo non lo ricordava come un cane, fu solo un veloce infortunio, non ebbe conseguenze. Jem aveva una sfilata di cani in marcia intorno ai muri nel suo covo in soffitta, dove teneva la raccolta delle curiosità del capitano Jim. Cani ritagliati da riviste, tutti cani di razza. Ma a tutti mancava qualcosa agli occhi di Jem, lui non sapeva cosa. E poi ci fu l'annuncio sul Daily Enterprise. Si vende un cane, contattare Roddy Crawford, Harbor Head. Niente di più. Jem non avrebbe saputo dire perché quell'annuncio si era fissato nella sua mente, o perché sentiva che c'era molta tristezza in quella brevità. Seppe chi era Roddy Crawford da Craig Russell. Il padre di Roddy è morto un mese fa e lui deve andare a vivere con sua zia in città. La madre è morta anni fa e Jake Millison ha acquistato la fattoria, ma la casa sta per essere demolita. Forse sua zia non vuole tenere il suo cane. Come cane non è niente di straordinario, ma Roddy gli è terribilmente affezionato. Oh, mi chiedo quanto vuole per il cane. Io ho solo un dollaro, disse Jem. Credo che quello che lui desidera di più è una buona casa per il suo cane, disse Craig. Ma tuo padre ti avrebbe dato i soldi per comprarlo, non è vero? Sì, ma io voglio comprarlo con i miei soldi, disse Jem. Lo sentirei più mio. E poi. Craig alzò le spalle. Quei ragazzi di Ingleside erano bizzarri. E poi qual era il problema se qualcuno offriva del denaro per un vecchio cane? Quella sera papà portò Jem fino alla vecchia fatiscente e povera fattoria dei Crawford, dove trovarono Roddy Crawford e il suo cane. Roddy aveva più o meno la stessa età di Jem, un ragazzo pallido con lisci capelli rossastri e una raccolta di lentiggini. Il suo cane aveva le orecchie di seta marrone, come pure il naso e la coda, e gli occhi più belli e dolci mai visti in un cane. Jem, appena vide quel bel cane con quella striscia bianca sulla fronte che passava tra gli occhi e incorniciava il naso, seppe che lo voleva. «Vuoi vendere il tuo cane?» chiese con impazienza. «Non voglio venderlo», disse Roddy debolmente. Ma Jake dice che devo, lui dovrà affogarlo. Dice che zia Vini non vuole un cane intorno. Cosa vuoi per lui? Chiese Jem, con la paura che gli venisse chiesto un prezzo proibitivo. Roddy, con un gran nodo alla gola, gli tese il suo cane. Ecco, prendilo, disse con voce rauca. Non mi va di venderlo, non voglio. I soldi non potrebbero mai ripagarmi di Bruno. Se gli dai una buona casa e sei gentile con lui. Oh, sarò gentile con lui, disse con entusiasmo Jen, ma tu devi prendere il mio dollaro. Non sentirò che è il mio cane se non lo farai, e io non lo prenderò se non lo farai. E quasi a forza mise il dollaro nella mano riluttante di Roddy, prese Bruno e lo tenne stretto al petto. Il cagnolino guardò il suo padrone. Jen non poté vedere i suoi occhi, ma vide quelli di Roddy. Se lo desideri così tanto. Oh, io lo voglio, ma non posso, sbottò Roddy. Ci sono state cinque persone che lo volevano, ma io non ho voluto darlo a nessuno di loro. Jake era furioso, ma non mi importava, non andavano bene. Ma voglio che lo tieni tu, perché io non posso portarlo fuori dalla mia vista in fretta. Jem obbedì. Il cagnolino tremava tra le sue braccia, ma non fece alcun segno di protesta. Jem lo tenne amorevolmente lungo il viaggio di ritorno a Ingleside. Papà, come ha fatto Adamo a sapere che un cane era un cane? Perché un cane non poteva essere altro che un cane, sorrise papà. Non ti pare? Jem era troppo eccitato per dormire quella notte. Non aveva mai visto un cane che gli piacesse così tanto come Bruno. Non c'era da stupirsi che Roddy soffrisse a separarsi da lui. Ma Bruno avrebbe presto dimenticato Roddy per amare lui. Sarebbero stati amici. Doveva ricordarsi di dire alla mamma che il macellaio doveva portare anche delle ossa. Amo tutto e tutti nel mondo, disse Jem. Caro Dio, benedici ogni gatto e ogni cane nel mondo, ma specialmente Bruno. E infine Jem si addormentò, forse pure il cagnolino ai piedi del letto, con il naso fra le zampe tese, dormiva. O forse no.